Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara, siamo a SMAU. Ciao Federico, buonasera a tutti e salutiamo anche chi è qui in fiera e chi ci sta ascoltando da casa e così via. Forse si sentirà sul fondo questo brusio che c'è ogni tanto quando con Mebius andiamo fuori. Andiamo in giro. Esatto, adesso vi diciamo che cosa trattiamo. La prima parte sarà dedicata ad andiamo sia al nord che al sud. Con un progetto grande e un progetto un po' più piccolo. Esatto, si parla inizialmente allora di recupero di cibo, quello che buttiamo via, sappiamo perfettamente che ne buttiamo via un sacco. E poi invece parliamo di un portale che crea una sorta di classe scolastica virtuale, poi proveremo a sentire insomma di che si tratta. E infine nella seconda parte della trasmissione parleremo di cinema e neuroscienze e quindi Shining, un bellissimo lo squalo, tema, perché sì, ci impauriamo sì. A seconda di come si muove la macchina. Dai partiamo. Via, partiamo. Chi è venuto a trovarci in studio? Giuseppe Galattà, buonasera. Buonasera. Allora, Giuseppe Galattà è il coordinatore di due progetti. Cominciamo da qualche dato. Del cibo confezionato, quanto ne buttiamo via? Finisce in discarica? Allora, complessivamente noi conferiamo in discarica circa 180 kg pro capite in Europa, in Italia 179, quindi siamo sesti in un anno. Okay. Quindi vuol dire ogni giorno mezzo chilo lo buttiamo in discarica. Di questo mezzo chilo un terzo è frutta e verdura e tre terzi frutta e verdura e un terzo invece è l'imbustato. Perfetto. Per recuperare questo cibo bisogna spacchettarlo. Certo. Questo proprio finisce come i tappi della marmellata in discarica. Perfetto. Bisogna spacchettarlo. Quindi stiamo parlando ad esempio dei cibi di quarta gamma, le insalate pronte, le zuppe pronte, queste cose qui, o non solo? Un po' tutto. Allora, questo cibo viene buttato in mille modi. Partiamo dalla grande distribuzione. Una bella fetta la butta la grande distribuzione. Ci pensa loro. Se voi pensate a uno scaffale di una grande distribuzione, quante confezioni diverse, potete pensare a che robot bisogna pensare per aprire un po' tutto. Quindi noi abbiamo studiato un modo per poter aprire tutte queste confezioni quando sono scadute e riutilizzare sia il contenuto che il contenitore. Okay. Tenete conto che il valore del contenuto è importante, ma il valore del contenitore è altrettanto importante. Assolutamente certo. Certo. L'obiettivo è quello di avere alla fine del mangime per animali. Con il contenuto facciamo mangime per animale, con il contenitore far quella strada. Quindi è possibile recuperare questa immensa quantità. Certo. di materiale vegetale soprattutto, diceva, ma questo, non solo. Questo stiamo parlando dello scaduto. Mm-hmm. Dello scaduto. Spesso si fa un po' confusione tra scaduto e scartato. Sì. Frutta e verdura non scade, se voi guardate nella confezione non c'è la scadenza. Certo. Quello che scade invece è quello che è imbustato, eccetera. Allora noi diciamo possiamo dividere il progetto in due parti. In due parti. Sì. Lo scaduto e lo scartato. Lo scaduto incide circa il 25%, 28-30% a seconda delle regioni, arriviamo fino al 33% come ho detto prima. Frutta e verdura, quindi lo scartato, varia dal 66% fino al 75% a seconda delle regioni. Quindi sono due progetti diversi, con due problematiche diverse. Lo scaduto lo puoi tenere ancora là un po', cioè nel senso che se la pasta scade, la puoi tenere ancora una settimana, 15 giorni, ma la puoi tenere anche lì 15 giorni, mentre frutta e verdura no, perché deperisce subito e quindi quella va recuperata immediatamente e deve avere subito un processo. Sì. È per questo che, ed è la parte più difficile, oltre ad essere la parte di dimensione maggiore, perché stiamo parlando dal 66% al 75%, quindi la parte maggiore, certo, è anche la parte più difficile da trattare, perché si perde subito. Si perde rapidamente. E quindi noi abbiamo proprio diviso i due progetti. La cosa... Sono due progetti, per guadagnare tempo, sono due progetti che hanno ottenuto dei finanziamenti consistenti, certo, messi insieme dell'ordine... 25 milioni complessivamente dal tutti MIUR, e due. Dal MIUR, certo. Uno su Smart City Sud... e l'altro su Smart City Nord. Perché qui dobbiamo arrivare a questo punto. Smart City Sud sono stati ammessi a finanziamento 8 progetti, Smart City Sud Nord 32, e quello sta negli 8, l'altro sta nel 32. Perfetto. C'è di mezzo l'Università di Messina, il progetto è allocato di mezzo, giù. Cioè, questa è la cosa interessante secondo me di questo progetto, forse perché sono bellunese e vivo al sud, riesco sempre in quasi tutti i nostri progetti a coniugare professionalità del sud, competenze del sud, con la parte industriale del nord. Okay. Perché anche le università del nord, io noto che sono molto più rivolte verso la parte industriale, mentre le università del sud, che non hanno diciamo componenti grosse industriali, non c'è l'industria, sono più verso la conoscenza. Perfetto. Verso la conoscenza. E quindi siamo riusciti a fare un progetto di conoscenza al sud, SAVE, un progetto di industrializzazione al nord, SORT. Sì. Quindi le due cose messe insieme riescono a risolvere il problema di tutta la filiera del cibo scaduto e scartato. C'è una cosa molto bella, per aprire rapidamente una finestra che lei mi ha detto per preparare in questa intervista: voi recuperate anche dalla verdura l'acqua che c'è dentro. Perché dare acqua nuova agli animali? Potrebbe ritornare agli animali di allevamento. Certo, bellissimo. Allora, SAVE, non proprio gli animali, ma va meglio il progetto si chiama SAVE. SAVE. L'abbiamo detto all'inizio. Il progetto si chiama SAVE, l'altro si chiama SORT. Okay. Il sistema è SAVE and SORT. Okay. Noi abbiamo ideato sia SAVE che SORT, è unico, soltanto che ci mancava l'industria al sud e l'abbiamo fatto al nord. Okay. Perché non si poteva fare SAVE al sud, SORT l'acqua, al sud. L'acqua. Quindi il concetto è questo: noi abbiamo diciamo due modi di recuperare e riutilizzare la frutta e la verdura per l'alimentazione animale. Uno è l'essiccazione o la disidratazione. Noi nella frutta e la verdura abbiamo 10% di secco e 90% di liquido. Questo 10% di secco lo utilizziamo per l'alimentazione animale, il 90% lo utilizziamo, al momento stiamo facendo sperimentazione per il florovivaismo, ma vorremmo arrivare a utilizzarlo per la quarta gamma, quindi di nuovo utilizzare l'acqua che abbiamo estratto dal finocchio e ridarla al finocchio, al figlio del finocchio. Ecco, va bene, Galantà, ci fermiamo qua. Progetto. Sul nostro blog troverete delle cose perché approfondiremo questo progetto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E qui in studio è venuto a trovarci anche, diciamo, ci scuserà Giuseppe, ma un ospite un pochino più giovane, Matteo Mosconi. Quanti Buonasera, anni hai, Matteo? Ho 19 anni. Ecco. È un progetto un po' più piccolo. Allora, vediamo se ho capito bene. Ha una bellissima maglietta che si chiama onfire.it ed è insomma il papà di questo progetto. Vai, esatto. Matteo, raccontaci. Abbiamo iniziato a creare un progetto scolastico che permetteva la condivisione di materiale didattico come lezioni piuttosto che compiti o altre, diciamo, cose che potessero servire agli studenti. E abbiamo creato questa piattaforma web che permette di studiare e di comunicare con i docenti in una maniera più semplice. Sì. Allora, scusa, io sono Paolo Paoloni della quarta liceo scientifico Schiaparelli, ci sarà senz'altro un liceo scientifico Schiaparelli. Entro nel vostro portale e mi iscrivo e metto per esempio dei miei appunti. Poi posso andare a vedere gli appunti degli altri? Ci sono questi portali qui? No, è la mia classe. Esatto, è proprio un concetto di essere presenti in una classe virtuale. Vogliamo portare digitale ciò che è sempre stato su carta. Ok. Quindi se mi capita, ad esempio, io che sono della quarta, rimango a casa perché mi ammalo, posso andare sulla mia classe e virtuale e studiare quello che la prof in classe ha spiegato il giorno stesso. La prof però deve caricarlo questo materiale. Certo, dalle lavagne interattive piuttosto che da un computer semplicissimo. Ma allora a un certo momento voi costringete in un modo estremamente garbato tutta la classe a iscriversi. Sì, è un vantaggio per tutti. Sarà un piacere iscriversi a questa roba. E anche l'insegnante. Quindi si crea gratuito. Una comunità che è quella della classe. Esatto. È già online. È già online da un mese. Allora, siamo on attivi. Fire come sul fuoco, giusto? Esatto. Onfire.it. Quante sono le classi già virtuali? Già il numero presenti? Di classi non lo so, so il numero di scuole. Sì. E siamo ad oggi più di 55 scuole. Ah, bene. Quindi è gratuita, chiunque può registrarsi. Speriamo di portare una piccola innovazione nel settore della scuola che è rimasto un Voi po' indietro. Voi avete vinto il premio sociale che vi ha attribuito, insomma, un concorso della città di Milano. Gli hanno dato uno stand del comune di Milano. E quindi però non sono solo scuole milanesi. Assolutamente no. Funziona in tutta Italia. È aperto per tutti, quindi iscrivetevi. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tu cosa ne pensi, Chiara? C'è una macchina al mondo che è quella più potente? Qual è quella macchina più potente per produrre emozioni? Non so se ti riferisci alla macchina da presa o anche al nostro cervello che allo stesso tempo produce emozioni. No, infatti qua stiamo per parlare sia di cinema, quindi della macchina da presa, sia di neuroscienze, del rapporto che si stabilisce. Finalmente sono arrivate le neuroscienze anche in questo comparto, ma certamente stavo per dirti: il cinema è una macchina che produce emozioni come nessun'altra, beh, forse tranne la vita stessa, certamente. Sì, certo. Ne dà un sacco. Perché ne parliamo? Esatto. Ecco, ne parliamo perché ieri al Festival della Scienza di Genova c'è stato un evento ieri sera dal titolo Lo schermo empatico, il cinema e i neuroni specchio, tratto da un libro che appunto porta lo stesso titolo, Lo schermo empatico, e qui con noi ci sono i due autori e i due protagonisti della serata di ieri sera. Vittorio Gallese, buonasera. Buonasera. Michele Guerra, benvenuto. Buonasera, grazie. Benvenuti. Allora, Gallese è fisiologo e neuroscienziato dell'Università di Parma. Michele Guerra invece è docente di storia del cinema americano e di teorie del cinema, sempre all'Università di Parma. Il libro è edito da Raffaello Cortina. Allora, iniziamo, Gallese. Voi vi siete messi insieme e questa abbinata neuroscienze e teoria del cinema, voi però l'avete vista anche alla ricerca di dati e quindi avete fatto degli esperimenti. Sì, il libro è un po' il punto di arrivo di un dialogo iniziato più di 5 anni fa tra Michele e me, e questo dialogo dall'inizio ha avuto come finalità a quella di tradurre i nostri interrogativi, le cose che discutevamo, in un percorso di ricerca che ci ha portato a identificare una serie di esperimenti che ci potessero permettere di affrontare dei temi centrali all'interno del dibattito su come funziona un film, perché ci piace andare al cinema, perché un film ci emoziona, visto dal punto di vista di come risponde il cervello dello spettatore. Quindi avete fatto dei brevi film? Sì, abbiamo realizzato in una sede professionale una serie di film che ci sono serviti per affrontare due aspetti centrali della grammatica del film: i movimenti di macchina e il montaggio. Muovendo la macchina in un certo modo e montando le scene in un certo modo, il regista realizza una narrazione che ha un impatto di un certo tipo sugli spettatori. A noi interessava conoscere come risponde il cervello dello spettatore quando la macchina sta ferma o si muove in un certo modo. Quindi avete realizzato delle scene diverse con montaggi diversi e avete registrato in che modo lo spettatore, quindi il soggetto, abbiamo utilizzato reagiva come tecnica la registrazione dell'attività cerebrale dello spettatore utilizzando l'elettroencefalografia ad alta densità. In pratica gli spettatori sedevano davanti a uno schermo del computer su cui venivano proiettate le sequenze, gli stimoli in questo caso dell'esperimento, e contemporaneamente noi con 128 elettrodi registravamo l'attività dei neuroni del cervello degli spettatori mentre queste scene si svolgevano davanti ai loro occhi. E è venuto fuori che in effetti ci sono dei montaggi e delle modalità tecniche chiaramente di ripresa che influenzano di più. Non c'è dubbio, nel primo esperimento abbiamo ripreso la stessa scena, un attore davanti a un tavolo che afferrava degli oggetti, riprendendola in modo statico, tenendo la cinepresa ferma, oppure muovendola in 3 modi diversi, avvicinando la scena muovendo la lente dello zoom, quindi zoomando sull'attore, muovendo la camera su un carrello, quindi utilizzando il dolly, oppure utilizzando una steadicam. Torniamo subito. Sentiamo, perché abbiamo preparato un pezzettino proprio che chissà quanti riconosceranno questo rumore di proviamo triciclo. A sentirlo, poi ne parliamo. Plop, plop, plop, plop. Una pedalata. È successo qualcosa. E qui? Eccole qua, tremende. in fondo al corridoio. Vieni a giocare con noi. E due. Questa forse è la scena più celebre e terrificante per quanto mi riguarda di Shining, in cui appunto Danny col suo triciclo si muove per i corridoi di questo albergo deserto, gira l'angolo e in fondo al corridoio appaiono le due tremende gemelle. Qui è stata usata a Gallese la Steadicam, cioè questa macchina che è estremamente sofisticata, che però c'è da un po' di anni, che permette di seguire un movimento senza avendo una grande pulizia del immagine, no? Stabile. E voi, esatto, cosa avete ricavato? Mettendo a confronto questi diversi movimenti di macchina, abbiamo riscontrato come il cervello motorio dello spettatore si attiva di più, significativamente di più, quando guarda la scena ripresa con la Steadicam. E non a caso, alla fine dell'esperimento, i soggetti, rispondendo a una serie di domande, ci hanno tutti detto che lo stile di ripresa che gli permetteva di meglio immedesimarsi in quello che vedevano erano le riprese realizzate con la Steadicam. Quindi c'è uno stretto parallelismo tra il grado di immedesimazione con la scena e la risonanza motoria, cioè l'attivazione del meccanismo di rispecchiamento mediata dall'uso della Steadicam. La Steadicam attiva molto di più il meccanismo dei neuroni specchio rispetto al dolly o al movimento della lente con lo zoom. Ecco, Guerra, nella movimentazione della macchina ci sono teorie da tempo, ce n'è una che magari ci spiega, che è quella dei 180 gradi. Sì, diciamo che la teoria dei 180 gradi ha a che fare con il montaggio. Si è negli anni standardizzato un tipo di montaggio che viene detto montaggio continuo, anche montaggio trasparente, che rispettando alcune regole spaziali molto precise permette allo spettatore di orientarsi all'interno della storia, perché quello che era il punto di partenza della nostra idea quando abbiamo cominciato a parlare di questa possibilità di fare esperimenti sul film era dire: molto strano che uno spettatore che sta seduto sulla sua poltrona nella sala cinematografica riesca a proiettarsi in maniera così forte all'interno di uno spazio bidimensionale che lui però percepisce come tridimensionale, riesca a seguire i movimenti dei personaggi, a condividere le loro azioni e le loro emozioni e a sentirsi davvero dentro quella vicenda, nonostante appunto gli spazi della sala e dello schermo siano, per così dire, segregati, molto distaccati l'uno dall'altro. Quindi noi ci chiediamo: com'è possibile che avvenga questa proiezione? Com'è possibile che si compia ad un livello così forte questa forma di simulazione? E partendo da quello che è lo stile cinematografico universalmente più seguito, che è quello che si è stabilizzato in breve tempo ad Hollywood, siamo partiti proprio dall'idea che certi movimenti di macchina e un certo tipo di montaggio fossero lo strumento migliore per portare lo spettatore dentro la storia. Ora, la regola dei 180 gradi è una regola che dice che se tra due personaggi viene tracciata un'immaginaria linea, che crea quindi uno spazio a 360 gradi, 180 da una parte, 180 dall'altra, la macchina può muoversi solo entro una metà, cioè soltanto entro 180 gradi. Se scavalca quella immaginaria linea avviene quello che con un termine tecnico si chiama scavalcamento di campo, e quindi lo spettatore viene disorientato, perché il taglio di montaggio creerebbe una situazione tale per cui i personaggi si invertono di posizione, lo sfondo cambia e improvvisamente quella capacità di simularci là dentro verrebbe interrotta. Quindi i tecnici cinematografici della prima ora hanno detto: per prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza la capacità di movimento e di simulazione dello spettatore entro lo spazio fisico. Ecco, Guerra, però poi in film come Quarto Potere di Orson Welles ci sono tutte queste riprese che sembrano di gente sdraiata sul pavimento, no? Sono tutti dei giganti. Quella roba lì è tremendamente irreale e però è estremamente efficace. Quindi quando viene violata anche, no? La regola. Questa regola, si possono ottenere grandi cose. Certamente, diciamo che siamo pieni di scavalcamenti di campo nella storia del cinema, siamo pieni di angoli come quelli welsiani, appunto, molto particolari, barocchi, stranianti in qualche modo. Diciamo che quando si rompe, si infrange quello che è il regolamento classico del cinema, dello stile cinematografico, improvvisamente lo spettatore viene messo in una posizione di fruizione differente, come a dire: qui c'è qualcosa che io devo in qualche modo decodificare, devo capire, è un momento topico, importante, questo significa. cioè esco dalla mia, uso un brutto termine, però esco dalla mia passività di spettatore che semplicemente gode di quella visione ed entro in una dimensione interpretativa che viene stimolata da un utilizzo particolare, diverso, in certi casi difficili, ma appunto stimolante dello stile cinematografico. Però bisogna farla bene, ecco, perché sennò magari diventa... Allora, sentiamo una cosa che forse riconosceranno ancora molti, di più tutti. Già. E lui si mangia le gambe di un povero bambino. È la scena dello squalo dove lo spettatore ha quella che si chiama, no, voi tecnici del cinema, della soggettiva, cioè la ripresa è fatta in modo che io mi identifico nello squalo. Però qui mi identifico nello squalo. Come mai viene fuori questo senso di terrore? Diciamo che l'idea della soggettiva, cioè del fatto che io immediatamente carichi la macchina da presa di un significato corporeo, quando io ho un'inquadratura soggettiva, automaticamente lo spettatore, in lui scatta un meccanismo che gli permette di attribuire quella che noi abbiamo definito un'immanenza corporea, cioè il fatto che quella macchina, che è una macchina, in realtà per noi diventa immediatamente un corpo che si muove. Ora, generalmente si tratta di un tipo di proiezione, come dice giustamente lei, che ha più a che vedere con esseri umani, quindi io mi identifico con un altro essere umano che si muove, che guarda, che volta la testa e che mi permette di condividere il suo spazio di visione. In questo caso però l'idea ottima di Spielberg di creare questa condivisione impossibile, cioè di metterci nel corpo dello squalo, noi non possiamo percepire la realtà e il mondo come la percepirebbe lo squalo, eppure in quel momento la macchina da presa compie questo miracolo e ci mette in quella posizione che diventa terribile, in qualche modo anche orrorifica, perché noi ci troviamo a condividere lo stesso spazio del mostro, cioè identificazione del tipo: io condivido lo spazio con questa creatura mostruosa e quindi sono consapevole che il disastro sta succedendo, ed è come se io fossi, diciamo, sulla schiena dello squalo. Ecco, ma adesso Gallese, sì. Chiara le deve fare una domanda, sì, io voglio solo chiederla al volo, però questa, sì, è una roba mostruosa, Gallese, dal punto di vista della capacità del cinema di creare emozioni facendoci diventare uno squalo, no? È veramente fantastica, fino ad avere, Gallese, delle preveggenze. Chiara. No, infatti volevo chiederle, Gallese, se non so, avete studiato dal punto di vista neurologico questa sensazione che noi abbiamo quando vediamo le scene, ad esempio quella che abbiamo visto in Shining, che qualcosa sta per accadere, cioè noi sappiamo che nella prossima scena, nel prossimo frame, succederà qualcosa, e quasi sempre qualcosa di catastrofico, perché insomma la musica ce lo anticipa, anche il mood, ecco, di tutta la scena. Diciamo che il cinema è stato da subito diabolicamente capace, in modo, appunto, come diceva Michele Guerra prima, del tutto induttivo, di sfruttare abilmente e moltiplicare delle dotazioni che fanno già parte del modo di funzionare del nostro cervello. I nostri apparati percettivi si sono evoluti per darci la possibilità di riconoscere la presenza della minaccia un attimo prima che questa minaccia si trasformi in un esito letale per noi. Lo ricordo allora, Vittorio Gallese, Michele Guerra, Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, presentato al Festival di Genova, edito da Raffaello Cortina. Grazie, grazie Gallese, grazie entrambi. E grazie Guerra. Grazie a voi, grazie, un a voi. Saluto a tutti. Buonasera. Gli ascoltatori di Radio 24. Adesso prendo lo smartphone e faccio un film. Tu fai Cleopatra. Benissimo, buona vado settimana. A prepararmi e a truccarvi. E io saluto gli ascoltatori e gli ascoltatrici. Grazie a tutti, ciao.